Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno care amiche e cari amici, sfido chiunque a non riconoscere quanto spesso nel modo di parlare quotidiano ricorriamo ai proverbi, che spesso sono un sintomo di banalità assoluta anche del linguaggio, ma tante volte nascondono delle perle di saggezza, dicono alcuni, di cui magari non ci si rende conto. E oggi ci intratteniamo su un proverbio fra i più celebri e forse anche fra i più abusati a tavola: al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Quante volte non l'abbiamo detto questo proverbio, senza poi in fondo chiederci che cosa voglia dire, per quale ragione il povero contadino non deve sapere quanto sono buone le pere mangiate assieme al formaggio e come nasce questo proverbio. La questione può sembrare del tutto strampalata, ma in realtà se si va a fondo di questa domanda ci possiamo divertire a scoprire molte cose, non soltanto sulla nostra lingua ma anche sulla nostra storia, e lo possiamo fare leggendo il libro di Massimo Montanari, Il formaggio con le pere, la storia in un proverbio pubblicato dalla Terza, 162 pagine, 15 euro. Questo non è un libro per studiosi della lingua, ma è, ripeto, un'appassionante ricostruzione di come si formino i proverbi, anzi di come si sia formato questo proverbio, partendo da dei dati di fatto relativi alla cultura, anche alla cultura materiale, alla società, alle relazioni di classe, insomma quello che è poi la storia materiale di un paese. E quindi un proverbio diventa la sintesi di un'epoca e può svelare anche aspetti veramente insospettati dello sviluppo storico. E allora sentiamo dall'autore che cosa ci può essere dietro a questo proverbio, no? Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Buongiorno a Massimo Montanari. Buongiorno. Professor Montanari, questo suo libro fa giustizia di un luogo comune secondo il quale i proverbi sono una sommatoria di luoghi comuni, o mi sbaglio? Sì, è proprio così. Io sono partito per questa ricerca da un proverbio molto noto: al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. È un proverbio molto strano, se lo pensiamo in bocca a un contadino, e ho cercato di ricostruire la storia di questo proverbio, il significato di questo proverbio, e questa è stata un'occasione anche per riflettere su che cosa è un proverbio e sul fatto che un proverbio non è mai una frase casuale, una frase gratuita, ma ha sempre o quasi sempre un significato che magari ci sfugge perché fa riferimento a dei parametri culturali che magari non sono più presenti. Nel caso particolare dei proverbi alimentari ci sono delle coordinate mentali che noi oggi non capiamo più. C'è per esempio la coordinata della differenza sociale, che è fortissima nella cultura alimentare del passato, e cioè l'idea che gli uomini sono diversi, non tutti uguali come ci siamo abituati a pensare noi oggi, e quindi devono mangiare in modo diverso, e quindi ciò che piace ad alcuni non deve piacere ad altri. E questa è una idea che traspare abbastanza chiaramente in questo proverbio del formaggio e delle pere, e che rimanda a una cultura che noi ritroviamo nel tardo medioevo, nel Rinascimento, fino al 600, molto forte. E infatti lei dimostra che il formaggio era un cibo popolare che appunto con questo accompagnamento poteva essere nobilitato. Ecco, infatti il meccanismo dal punto di vista simbolico è proprio questo: il formaggio è sempre stato pensato come un cibo povero, però a un certo momento si raffina, entra anche sulla mensa signorile, e però quando queste cose accadono, cioè quando i ricchi signori assumono nel proprio modello alimentare cibi o ricette o preparazioni povere, cercano in qualche modo di nobilitarle con strategie diverse, per esempio aggiungere prodotti preziosi come le spezie, oppure aggiungere prodotti diversi che hanno un'immagine signorile a differenza dell'altro prodotto. È il caso della pera. La pera ha sempre avuto nel Medioevo, ma ancora nell'età moderna, un'immagine di cibo prestigioso, di cibo di lusso, dovuta al fatto che si tratta di un cibo molto deperibile, quindi legato all'idea un po' dell'effimero, all'idea appunto del lusso, che si contrappone invece all'idea della fame che va nutrita con cibi conservati, con cibi che siano garantiti. Quindi da un lato il formaggio come risorsa tipica del mondo contadino, dall'altro la pera come prodotto sentito come qualcosa di raffinato, mettere insieme queste due cose in una cultura come quella medievale e rinascimentale, dove contadini e signori debbano mangiare in modo diverso, è un'operazione simbolicamente scorretta. Certo. Scorretta però se la fa il contadino, non se la fa il signore. Il signore ha il diritto di appropriarsi del cibo del contadino, ma questo non vale all'inverso. E infatti lei scrive nel suo libro che questo proverbio nasconde, diciamo, la convinzione che il gusto, il buon gusto, sono vietati alla gente del popolo. Ecco, secondo lei questa convinzione è ancora diffusa? Perché alla fine c'è anche oggi un atteggiamento snob, per il quale appunto il buon gusto del vivere appartiene soltanto a alcuni ceti. Secondo me sì, farei una piccola premessa. Nel fare questo discorso noi utilizziamo un'idea di gusto che è tipicamente moderna, che coincide con quella di buon gusto in sostanza, cioè il gusto come qualcosa di appreso, come qualcosa di culturale, come qualcosa di legato all'educazione, non come fatto istintivo. E dico questo perché invece nella tradizione medievale prevaleva l'idea del gusto come qualcosa di istintivo. Allora, nel momento in cui fra 400 e 500 si costruisce questa idea del buon gusto, ecco che il buon gusto diventa un segno di distinzione sociale. Io posso averlo e in quanto ce l'ho mi distingo da te. Lei mi chiedeva se questo esiste ancora oggi. Certo esiste in maniera diversa, perché oggi non abbiamo più una ideologia esplicita, chiara, fondata dal punto di vista culturale della differenza sociale legata al cibo. Però sotto sotto qualcosa del genere c'è. Le faccio un esempio. Quando una decina di anni fa, ormai una ventina di anni fa, ha cominciato a diffondersi il movimento di Slow Food, uno delle componenti ideologiche più forti di questo movimento è stato appunto il diritto al piacere come diritto universale, cioè il diritto di godere del cibo, il diritto di gustare il cibo, legato evidentemente al tema della conoscenza, perché se tu non conosci le cose non le puoi apprezzare. Quindi l'educazione al gusto come diritto comune, come diritto collettivo. E quindi un proverbio ci può aiutare. Sì, un proverbio ci può aiutare. Io spero con questo libro di avere anche mostrato come un proverbio vada preso sul serio. Bene, grazie a Massimo Montanari. Grazie a voi. Affronta lo stesso tema, e cioè la fulminante verità che può nascondere una brevissima frase, l'autore James Jury, che è un giornalista americana e che ha pubblicato con Rizzoli un libro dal taglio diverso, ma che comunque gravita sempre intorno allo stesso tema. Il titolo è La vita in una frase, la fulminante storia del pensiero breve, pubblicato appunto da Rizzoli, 250 pagine, 17 euro, tradotto da Ilaria Katerinov e Natalia Stabilini. Qui addirittura per Jury un aforisma può diventare quello che ti cambia la vita. L'autore infatti confessa che fu proprio grazie a un aforisma che trovò moglie. Jury sostanzialmente li raccoglie gli aforismi, e quindi l'aver trovato moglie attraverso questa ricerca è forse il successo maggiore in questa sua collezione. Che cos'è l'aforisma per Jury? Ce lo spiega in questo modo. Gli aforismi non sono le frasette sdolcinate che si trovano nei biglietti d'auguri, sono molto più rudi, polemici e sovversivi. Non ci si accomoda in poltrona con un buon libro di aforismi. Quelle frasi saltano fuori dalla pagina e spiegano le vele dentro di noi. L'aforismo per l'autore deve essere quindi breve, definitivo, personale, assicurare un colpo di scena ed essere filosofico. E qui ne passa in rassegna molti, raccogliendoli in capitoli tematici e poi presentandoli attraverso i loro autori. Ma, come ha precisato lo stesso Jury, questo libro non è un'enciclopedia delle citazioni, non è un dizionario degli aforismi, ma un ragionamento su alcuni grandi temi della vita che ci accompagnano, illustrati appunto da queste brevi frasi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Segnalo adesso, soprattutto alle nostre amiche, una curiosa iniziativa che ha lanciato l'editore Marcos y Marcos. È un'iniziativa nata con la collaborazione di un parrucchiere di Milano, Giocasta, e durerà fino a tutto dicembre in 17 parrucchieri sparsi per tutta l'Italia: Cagliari, Palermo, Tricase, Pisa, Bologna, Correggio, Pavia, Mantova, Milano, Monza, Piacenza, Roma, Sassari e Torino. Le signore e signorine troveranno in questi 17 parrucchieri i libri di Carlen Thompson, che è una scrittrice di gialli psicologici che sono stati messi a disposizione da una serie di librai. Perciò l'iniziativa si intitola Regalati un taglio da brivido. Non si va a prendere il libro, ma si va a leggerlo mentre si attende o si è serviti durante il taglio o la messa in piega. Gli ultimi volumi pubblicati da Marcos y Marcos della Thompson sono Non chiedere gli occhi, 454 pagine, 14 euro, Nero come il ricordo, 336, 13,50 euro, Ultimo respiro, 396 pagine, 15 euro, Non dirlo a nessuno, 14 euro, 400 pagine, ripeto, tutti pubblicati da Marcos y Marcos. E quindi alle signore buona lettura e buona seduta dal parrucchiere. Sempre più in voga sono i gialli e i thriller storici, e allora vi propongo per esempio La gemma del cardinale di Patrizia De Bic van der Noot, è pubblicato da Corbaccio, 400 pagine, 18,60 euro. Il romanzo è ambientato nella Firenze del 1587, all'indomani della morte del granduca Francesco I e della moglie Bianca Capello. Assume il potere il cardinale Ferdinando de' Medici, che vuole al suo fianco il fratellastro Giovanni, il quale poi sarà protagonista di una lunga serie di avventure provocate dal disegno dei nemici dei Medici di impossessarsi del loro stato. Un interessante mix tra storia e romanzo è Il paggio e l'anatomista, scienza, sangue e sesso alla corte del Granduca di Toscana di Walter Bernardi, professore di storia della scienza all'Università di Siena. Quindi, come vedete, anche qui uno studioso. Il suo libro è pubblicato da Lettere, 194 pagine, 18 euro. E questo in realtà è la ricostruzione di un episodio storico, una ricostruzione consentita dalla riscoperta di alcuni faldoni che erano stati abbandonati o comunque sono stati ritrovati negli archivi fiorentini. E parliamo quindi della Firenze del XVII secolo, dominata dalla figura del granduca Ferdinando II, legato, diremmo oggi, da un'affettuosa amicizia al suo paggio, il conte romano Bruto della Molara, che assunse, grazie ai suoi legami anche sentimentali, un enorme potere a corte. Ma Molara si piccava di essere anche uno scienziato e fu protagonista della vita intellettuale di quell'epoca, nella quale troviamo tra gli altri nomi noti come Francesco Redi, un grande scienziato di Arezzo, e Lorenzo Magalotti. Non solo, ma addirittura Molara, per difendere le proprie tesi scientifiche, non esitò ad assoldare dei sicari contro chi non ne aveva condiviso l'opinione. E quindi questa è una storia complessa, tornata appunto alla luce con questa riscoperta, condotta con piglio assolutamente storico e con rigore assolutamente storico, ma che ci apre una pagina abbastanza insospettabile e appassionante della vita di corte, dove appunto scopriamo una Firenze e una corte sicuramente lasciva, pettegola, ma certamente aperta agli interessi scientifici che si intrecciavano con i giochi di potere e con le questioni sentimentali. A proposito dei Medici che abbiamo incontrato in questi ultimi due libri, vi segnalo che fino all'8 febbraio del 2009 a Palazzo Strozzi, a Firenze naturalmente, è aperta la mostra Caterina e Maria de' Medici, donne al potere. Firenze celebra il mito di due regine di Francia. È una grande mostra che appunto ricorda il contributo anche all'arte che hanno dato queste due regine, una mostra ricca di opere particolari, come adesso ci descrive Marco Carminati. Buongiorno Marco. Ciao Salvatore. Sì, in effetti la mostra di Palazzo Strozzi ha un particolare veramente impressionante e vistoso, cioè la serie di 15 arazzi che sono stati portati in Italia dalla Francia, che raccontano il mito della regina Artemisia. Questa regina in realtà è una figura mitologica, anzi addirittura le Artemisie sono due, per cui chi compose la storia degli arazzi fece una specie di centone, ma quello che importa è che dietro la figura mitologica di Artemisia gli arazzi raccontano la storia di due regine della casa Medici, Caterina e Maria de' Medici. Le due regine erano andate in sposa, prima Caterina a Enrico II di Valois e poi Maria, al principio del Seicento, a Enrico IV. Ecco, curiosamente la storia di questi due personaggi che non si conobbero venne legata da questa serie di arazzi che vediamo in Palazzo Strozzi, perché la committente degli arazzi fu Caterina de' Medici, la quale, rimasta vedova, decise di affidare la propria politica di madre attenta all'erede a una storia che appunto era la storia di Artemisia, e fece fare una serie di disegni per poi trarre questi disegni in arazzi. Ora non fece in tempo a compiere questa impresa. Tenete conto che gli arazzi sono enormi, sono alti 5 metri 15, quindi immaginate imponentissima serie di queste pitture fatte in realtà con la seta, la lana, il filo d'oro e il filo d'argento, quindi sono cose preziosissime. Non fece in tempo a realizzarle. Qualche decennio più tardi, Enrico IV, in occasione delle nozze con Maria de' Medici, parente di Caterina, decise di far mettere in atto gli arazzi. Li fece realizzare alle porte di Parigi da una serie di arazzieri di origine fiamminga. I fiamminghi erano i migliori in questo genere di arte, e fece naturalmente completare la sequenza con una serie di storie in più. La cosa divertente è che evitò di andare alla fine della storia, perché noi sappiamo che Artemisia, la seconda, era la moglie di Mausolo, e rimanendo vedova fece fare il mausoleo al marito. Naturalmente il re questo episodio non lo fece trattare, perché era ancora in vita, e quindi questa serie viene composta al principio del 600 per appunto celebrare queste due donne che, come l'antica Artemisia, avevano illustrato la storia della propria casata e soprattutto della casata del marito. Erano state madri esemplari ed erano state mogli esemplari, quindi un'occasione davvero da non perdere per vedere la storia europea che si intreccia, la storia italiana delle due principesse, la storia francese dei re di Francia e anche la storia fiamminga, perché l'arazzo è una tipica manifattura di cultura e di scuola fiamminga. E da Firenze passiamo a Genova con Il mistero degli incurabili, anno domini 1589, di Lorenzo Beccati, è pubblicato da Kowalski, 316 pagine, 15 euro. Ritroviamo qui il guaritore di maiali, l'investigatore della Genova di fine Cinquecento, che indaga in questo caso sugli strani accadimenti all'ospedale degli incurabili e sull'uccisione di tre ragazzi. Anche questo un thriller storico appassionante, capace di restituirci il clima della Genova di quegli anni, come dimostrano queste righe adesso sentiremo. Come ogni mattina, nei pressi del mercato del porto c'è un gran movimento di gente e di bestie. Donne con gerle in testa e un bimbo per mano, uomini che si trascinano sotto il peso di enormi sacchi bitorzoluti, garzonetti sfaccendati che corrono in gruppo, galline che scappano rincorse dalle ragazzine, oche che starnazzano e battono le ali, stufe di stare in grembo. Un saltimbanco sui trampoli è urtato e cade sulle ginocchia. Un venditore ambulante di pane suona il corno a guancia gonfia per richiamare l'attenzione degli avventori. Una vecchia in carta pecorita mostra a coloro che passano un astice vivo che muove a stento le chele. Un predicatore urla che il tempo terreno è finito. Eppure, ancora non si decide ad andarsene, poiché nessuna moneta l'aspetta nel cappello posato a terra. Un pavone sbuca da una selva di gambe e, trovato spazio, fa la ruota. Niente di che. Una coppia di soldati appoggiati alle alabarde corteggia una lavandaia ancora indecisa tra i due. Un acquaiolo offre il sollievo della sua merce, mentre due uomini affacciati a una taverna lo deridono tirando il collo a un fiasco di vino. I carrettieri, sui loro mezzi carichi di merce, urlano inutilmente chiedendo strada. Quattro comari, chine in un truogolo, lavano più pettegolezzi che panni. Un gruppo di manovali cammina compatto, cristando di compensi e malelane. Il confettino. Restiamo a Genova con la voce di un genovese indimenticabile, Bruno Lauzi. Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto, e a raccontarvela io mi diverto. Questo era un brano tratto da Virgola, il disco che accompagna il libro così intitolato, con la storia di Bruno Lauzi e i disegni di Altan, il libro pubblicato da Gallucci, 16,50 euro. E con questo ringrazio Laura Marchesi e Daniele Casagrande in redazione, Valeria Bernardi in regia. Passo la linea a respiro di Laura Bettini. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona settimana.